ostio mio cuore precipitoso allighe. A cruda morte io dannar la mia vita. Ah, fuori d'arte, scoprimi del mio bene le adorate reliche. Ai dolci avanzi delle zanne voraci darò pentito almeno. Per le lagrime ossive, giammai non si ravvive estinta pace, e in val langue del Nilo piange sull'uom, dopo che morto e giace. Ma che scorgo, che miro, ecco trafitto al suolo, arrivi il mostro, gran portendo le mani. Mosso a pietà di due pupille accese, forse volà dal cielo, con l'egida fatal Marte discese. Se vi varianna io non dispero, con diluvio di pianto d'ammollir sua fierezza, placa lagrime e prieghi ogni bellezza.